America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Siamo in atmosfera da conclave, lo siamo anche in America, lo siamo soprattutto in America. L'America cattolica guarda con grandissimo interesse quello che sta succedendo a Roma, anche perché c'è, come dire, una domanda di fondo che circola da qualche tempo da questa parte dell'Atlantico. È possibile che da questo conclave emerga per la prima volta un Papa americano? Beh, devo dire che se ne parla perché? Perché da sempre si è detto no, un Papa americano non è possibile, l'America è già la potenza dominante, non si darebbe un buon messaggio alla comunità cattolica mondiale nel momento in cui, oltre a essere prima superpotenza del mondo, un americano potesse esercitare la sua influenza attraverso il papato. Ma le cose sono cambiate. L'America è un primus inter pares, non è più una superpotenza assoluta, i tempi della fine della guerra fredda sono finiti, la Cina, la notizia dell'altro giorno, la Cina sta superando gli Stati Uniti per importazioni di petrolio greggio, diventerà presto la prima economia mondiale dal punto di vista del PIL. Dunque l'America resta una potenza militare, resta una grande potenza, ma è un primus inter pares, e dunque ci sono dei nomi. Anytime people ask about me, when they're kind enough to ask, I will say I am the oldest of five children of Robert Matthew and Shirley Radcliffe Dolan. Timothy Michael Dolan è il cardinale, l'arcivescovo di New York, il cardinale Dolan. Il buzz, devo dire, sulla Madison Avenue fra la 50 e la 51, tra l'altro non lontano dai nostri uffici qui a New York, è piuttosto forte. E il retro della cattedrale di St. Patrick, la più grande, la più importante cattedrale cattolica a New York, dove ci sono gli appartamenti privati del cardinale, di sua eminenza. Ed è un uomo straordinario Dolan, un fisico possente, classe 1950, dunque giovanissimo per gli standard vaticani, e con due caratteristiche chiave. È un conservatore, come Papa Benedetto XVI, ma è il suo opposto in termini di personalità, aperto, pronto alla pacca sulla spalla, ha una vera impronta irlandese. Tra parentesi, una gran parte dei cardinali americani sono irlandese. È un vero pastore, è stato arcivescovo di Milwaukee e prima ancora vescovo di St. Louis, prima di essere nominato cardinale dal Papa. Per farvi un esempio di questa differenza, quando fu nominato alla guida della più grande diocesi americana, che è quella di New York, dove fra italiani, irlandesi, ispanoamericani i cattolici dominano, debuttò dicendo: la mia prima lettera pastorale sarà chiarissima, no alla birra leggera e al purè di patate in bustine. Ecco, un uomo simpatico, un uomo che rifiuta le cose veloci, un buon gustaio e ovviamente, da buon irlandese, un amante della birra. Dietro la sua candidatura c'è la forza della Chiesa americana. Voglio ringraziare President Obama for his trust in me. John Kerry, il nuovo segretario di Stato, si è laureato al Boston College, che è una delle più grandi università cattoliche degli Stati Uniti. We have to have zero tolerance. Andrew Cuomo, Fordham University, di nuovo una delle più grandi università cattoliche. I want to talk about the obligations of citizenship. Bill Clinton alla Georgetown University, una università gesuita, una delle più importanti università americane, ma da Georgetown sono usciti anche Antonin Scalia, David Petraeus, José Manuel Barroso, John Podesta, che è stato poi un grande consigliere di Bill Clinton. E qui stiamo parlando soltanto dell'influenza attraverso le università, alcune delle più grandi università americane. Ci sono gli ospedali cattolici in America. Gli ospedali cattolici sono molto molto importanti, e purtroppo uno a New York ha chiuso, St. Vincent, che era un ospedale storico. La Chiesa ovviamente sta soffrendo di due problemi, diciamo, da un punto di vista finanziario. Alcune delle cose non sono andate bene, perché come tutti la Chiesa ha sofferto della crisi, ma a questo si deve aggiungere l'altro problema dei preti pedofili, che ha alimentato cause carissime contro la Chiesa cattolica, che ha dovuto poi rimborsare milioni di dollari. Ma dal punto di vista di popolazione, gli Stati Uniti sono il quarto paese per numero di cattolici. 74,4 milioni di persone si definiscono cattolici, ma la religione cattolica è comunque la prima denominazione religiosa negli Stati Uniti. 100 milioni di americani sono stati battezzati, quindi un americano su tre, e sono al quarto posto dopo il Brasile, 134 milioni di cattolici nel 2011, Messico e filippine. Dunque un americano su quattro è di fede cattolica. E soprattutto nel contesto americano sono cresciuti, perché nel 1906, per esempio, i cattolici negli Stati Uniti costituivano il 17% della popolazione, oggi il 24%. La forte immigrazione, prima degli italiani, dell'italoamericani e poi dei latinoamericani, chiaramente ha portato, ha aumentato enormemente il serbatoio dei cattolici in questo paese. E passiamo alla potenza finanziaria della Chiesa Cattolica Americana, che secondo una stima dell'Economist, la spesa annuale della Chiesa Cattolica Americana è stata di 170 miliardi di dollari nel 2010, e qui abbiamo già una divisione dell'importanza. Il 57% è andato alla rete sanitaria, di ospedali e di strutture sanitarie di vario genere. Il 28% ai college, dunque alle istituzioni universitarie, il 6% alle diocesi e alle parrocchie, il 2,7% ad attività di beneficenza. Complessivamente ci sono circa 1 milione di persone che negli Stati Uniti d'America lavorano nel contesto di istituzioni cattoliche. Questo per dire che cosa? Che la Chiesa americana rappresenta il 60% della ricchezza della Chiesa cattolica a livello globale ed è davanti a Italia, Francia, Germania e a molti altri paesi. Questo cosa significa? Che insomma i cardinali americani possono anche pensarla in modo diverso rispetto a alcuni cardinali di estrazione europea. E in che modo? Beh, sono più favorevoli al mercato di quanto non lo siano alcuni cardinali di estrazione europea o alcuni cardinali di estrazione latinoamericana. E c'è stata attenzione. Questo credo che sia uno dei punti chiave che potrebbero creare delle difficoltà a diciamo un cardinale americano, al di là del fatto che gli Stati Uniti restano grande potenza, ma forse oggi potrebbero in qualche modo ambire ad avere un papa americano. E cioè che c'è dietro la preparazione dei cardinali americani un punto di vista che non necessariamente coincide con Lima, con la maggioranza degli altri cardinali. E veniamo a un altro papabile. I haven't lost any sleep about it, and I have bought a round trip ticket. So, Sean O'Malley. Ecco, se il cardinale Dolan, che è il presidente, tra l'altro, dell'Associazione degli Arcivescovi Americani, quindi è un uomo che ha anche un ruolo, un incarico molto importante di coordinamento, è stato molto chiacchierato, non si pensa, non si ritiene che poi possa davvero farcela, anche per questo suo modo di essere così un po' troppo spigliato. Invece la persona che ha maggiori probabilità, si dice, potrebbe essere Sean O'Malley, un altro irlandese, è l'arcivescovo di Boston, nato nel 1944, è stato nominato cardinale da Papa Benedetto XVI nel 2006, quindi di recente nomina, e molto introdotto nel contesto di quello che Benedetto XVI si è lasciato dietro di sé. È l'unico cardinale a far parte dell'ordine dei Cappuccini, ma soprattutto un uomo con una personalità solare, grande comunicazione, un vero pastore, ha una barba, l'unico cardinale con questa barba così un po' profetica, ed è un prelato che ha riscosso sempre dal punto di vista umano uno straordinario successo. La partita è aperta. Se ci sarà qualche cosa in arrivo dall'America, beh, le coordinate che vi ho dato potranno darvi una chiave di interpretazione sul perché, forse pur fra mille difficoltà, questa volta un papa americano ha molta più credibilità di quanto non ne abbia mai avuta in passato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Beh, ed eccoci alla canzone del giorno. In America, devo dire, Dio è molto presente ovunque, dai discorsi del presidente che si concludono sempre con la formula rituale God bless America, God bless you, al Pledge of Allegiance, nel quale non si giura fedeltà soltanto alla bandiera o all'America, ma a una nazione sotto la mano di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. E dunque non c'è da sorprendersi se anche nella musica leggera ogni tanto c'è qualche riferimento a Dio. Per tutti vi faccio ascoltare uno dei maggiori successi di Joan Osborne, What If God Was One of Us. What if God was one of us? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento con America 24 dal lunedì al venerdì alle 13:45. Goodbye and get going!